vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 giugno, il sole in regione è sorto alle 5.15 e tramonterà alle 21.01. Domani c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Giovanni Taormina. C'è una buona novità dal fronte della lotta alla cimice ammarmorata asiatica. È stato trovato vivo, vegeto e attivo un parassitoide scoperto lo scorso anno nel Pordenonese. Segno questo che ha superato l'inverno e potrebbe essere l'antagonista giusto per contenere il dilagare delle cimici. La notizia arriva dall'ERSA, con cui facciamo il punto sulle azioni di contrasto. A seguire il corsivo di Enos Costantini, che ci parla di quello che lui definisce il cibo cadavere, che l'industria ci propina ogni giorno, infarcendolo con tante altre cose che hanno ben poco a che vedere con l'alimento di partenza. Per le normative ci sono novità nel settore latte, con contributi a chi istituisce filiere nel settore. Per la storia dei bovini siamo ancora con la pezzata rossa nel secondo dopoguerra, quando si mise mano alla sua triplice attitudine di latte, carne e lavoro. Per la rubrica dei giardini, la descrizione del parco di Sant'Osvaldo a Udine, che potrebbe diventare un ottimo punto di attrazione per esperienze urbane verdi. Seconda puntata poi per la storia della grappa, su come l'arte impreziosì questo distillato con bottiglie ed etichette firmate. Mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Cimice marmorata asiatica è il nome del nemico pubblico numero uno, non solo in agricoltura ma in tutti questi mesi, che sta infestando campagne ed inverno anche le nostre case. Un po' tutti sappiamo quale sia il problema e oggi vogliamo fare, assieme a Iris Bernardinelli del Servizio Fitosanitario dell'ERSA, il punto sulla lotta a questo insetto. Ci sono in atto più esperienze per cercare perlomeno di combatterlo. Oggi Iris Bernardinelli ci darà anche un'importantissima novità che è proprio di queste ultime ore. Innanzitutto parliamo dell'insetto e della sua diffusione. Dal monitoraggio si sta evidenziando che le zone del Medio Friuli continuano ad avere elevate popolazioni, ma queste elevate popolazioni si stanno osservando anche un po' più a nord e un po' più a sud di queste aree. Lotta chimica insufficiente. Sicuramente insufficiente, non in grado di abbattere questo insetto, perché ha proprio la caratteristica di spostarsi continuamente da una coltura all'altra e quindi è difficile intercettarlo col trattamento chimico. Lotta meccanica, interdizione, reti per capirci. Potrebbero funzionare su alcune colture come le frutticole, sicuramente valido ausilio per impianti nuovi, sugli impianti esistenti molto più complesse da gestire. Lotta biologica, quella che ci sta dando più speranze. Andiamo per ordine con le varie vespette trovate. Prima di tutto era stata fatta una prova di lancio con Cirtus telenomicida, un parassitoide del CREA, che ha rivelato non essere particolarmente efficace. Questa prova ci ha permesso di osservare una novità molto interessante, la presenza di Trisolcus mitsukuri sulle ovature all'interno di un actinidieto biologico dove erano state fatte le prove appunto con questo parassitoide autoctono. Nella provincia di Pordenone, diciamolo. Questa novità, Trisolcus mitsukuri, che è un parente molto stretto della vespa samurai Trisolcus japonicus, aveva un livello di parassitizzazione anche superiore all'80%. E siamo alla novità di queste ore. Nella stessa località sono state trovate diverse ovature parassitizzate, di cui una proprio da Trisolcus mitsukuri, che è sfarfallato questa mattina proprio 10 minuti prima che io arrivassi qua. Questo vuol dire che il Trisolcus mitsukuri è stato in grado di trascorrere e superare l'inverno e che è attivo già dalle primissime ovature presenti sul territorio, quindi nel medio lungo periodo sarà una delle potenziali vespette antagoniste in grado di controllare efficacemente la cimice asiatica. Descriviamo un po' cosa fanno, chi sono questi Trisolcus. Sono parassitoidi delle uova, vuol dire delle piccolissime vespette lunghe pochi millimetri che non danno problemi di puntura all'uomo o fastidi e che che vanno a deporre il loro uovo all'interno delle uova di cimice. Così, anziché nascere una cimice, nasce un nuovo Trisolcus. Cosa molto interessante è che da ogni ovatura di Trisolcus nascono mediamente due maschi e 26 femmine. I due maschi sono in grado di fecondare tutte le 26 femmine e quindi di avere tantissimi insetti che andranno a ovideporre. E poi c'è anche una formichetta, chiamiamola così. Sì, siccome appunto questi Trisolcus sono di origine asiatica e non possono essere lanciati perché il quadro normativo al momento non lo prevede, anche se si stanno facendo dei importanti passi avanti per risolvere questi problemi, Anastatus bifasciatus è un altro imenottero in grado di parassitizzare le uova di cimice ed è autoctono, per cui si stanno facendo dei lanci sperimentali per valutarne l'efficacia anche in Friuli Venezia Giulia. Quando potremo vedere i primi risultati? Su Anastatus si vedranno verso la fine dell'estate, a fine stagione praticamente. E su Trisolcus mitsukuri stiamo facendo un attivo monitoraggio interregionale coordinato dal CREA che permetterà di avere un quadro della situazione a livello regionale. Siamo invasi, ormai non ci facciamo neppure tanto caso da quello che Enos Costantini chiama il cibo cadavere, perdendo di vista tutta una serie di inganni per dare sapore a quello che mangiamo. Ogni qualvolta si cerca di perorare la causa di un'agricoltura che produca cibo buono e salutare, viene sempre fuori qualcuno a dire che non sempre ciò che è naturale è anche salutare. Ci siamo stufati di questo stolido luogo comune. Lo sappiamo bene che la cicuta naturalissima è velenosa e che il curaro naturalissimo anche lui lo è ancora di più. Ma l'insalata di cicuta condita col curaro non rientra in nessuna gastronomia. La natura si fa i fatti suoi e sta all'uomo conoscerla per non farsi male. Quando poi si va sulla sicurezza alimentare pare che esistano solo i microbi e che tutti questi siano cattivi. In realtà i microbi cattivi sono pochi rispetto al totale. E le usuali norme igieniche sono sufficienti a tenerli a bada. È assai più preoccupante invece la antibiotico-resistenza, dovuta al dilagare di antibiotici nel bel mondo dell'allevamento e financo nei cibi e sui cibi, vedi formaggio. Se ne parla poco, ma quando incontri il batterio killer, rischi di avere un'arma spuntata. Il più grande problema del cibo attuale non è però la presenza del batterio killer sempre e comunque da evitarsi, bensì la assenza di valore nutritivo. I cibi sono denaturati da troppe lavorazioni e caricati di sale, zuccheri e grassi perché altrimenti non avrebbero sapore. Che valore nutritivo ci può essere in un prodotto fatto con farine che non contengono i fondamentali bioregolatori della vita come le vitamine? Siamo l'assurdo. Il cibo cadavere che non ha valore nutritivo e che apporta solo grassi, sale e zuccheri non è mai nel mirino delle autorità sanitarie. Tale cibo è stato addizionato di coadiuvanti alimentari, smaccato eufemismo. E così ci facciamo carico di coloranti, insaporitori, edulcoranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, antiagglomeranti, regolatori del pH, addensanti, gelificanti, stabilizzanti, chiarificanti, solventi, deodoranti, decoloranti, lubrificanti, antischiuma, demetallizzanti, idratanti, sali igroscopici, onde vendere acqua, eccetera, eccetera. L'attenzione pur doverosa ai microbi patogeni nasconde forse colpevolmente questo delirio di chimica nel piatto. Ogni sostanza è sempre nelle norme di legge, per carità, ma le norme di legge non le ha fatte qualcuno di sopra delle miserie umane, e la somma delle singole sostanze non è normata da nessuna norma umana. Le norme divine, la religione, l'etica devono rimanere fuori dal piatto. Dimenticavo quel gruppo di sostanze poco nominate che vanno sotto il nome collettivo di perturbatori endocrini. Ho detto perturbatori endocrini, in inglese endocrine disruptors, e non ho detto poco. Chi parla di sicurezza alimentare non dovrebbe nascondersi dietro un microbo. Per contrastare le perduranti criticità della filiera del latte, la regione viene in soccorso con nuove misure di aiuto. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. La legge regionale prevede infatti aiuti specifici per il settore lattiero caseario sotto forma di contributi in conto capitale e di finanziamenti agevolati erogati attraverso il fondo di rotazione in agricoltura. I beneficiari sono quelle imprese che si organizzano per l'attuazione in forma congiunta e integrata di progetti di filiera che puntino alla realizzazione di economie di scala o di recupero di competitività in ambito produttivo e commerciale, anche attraverso attività di promozione, di marketing oppure investimenti che puntano a elevare gli standard di qualità dei prodotti alimentari e del benessere animale negli allevamenti. Stiamo parlando di imprese agricole? Non solo. Le imprese che aderiscono al progetto devono essere almeno 7 e devono rappresentare tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla trasformazione alla commercializzazione. È consentito che una delle 7 imprese possa essere anche solo una ditta di trasporto. Inoltre devono essere piccole e medie imprese con unità produttiva sul territorio del Friuli Venezia Giulia. E cosa viene chiesto in cambio? Tutte le imprese, comprese le cooperative e i consorzi, devono dar vita a un soggetto che avrà il compito di rappresentarle in forma unitaria nei confronti dell'amministrazione regionale. La forma giuridica non è predefinita, potrebbe essere una società, una rete di imprese o una semplice associazione temporanea di impresa. Questa avrà il compito di presentare le domande di aiuto per conto degli aderenti e di coordinare l'attuazione del progetto. Nel caso in cui, prima del completamento del progetto, il numero delle imprese si riduca a meno di 7, ovvero non sia più presente almeno un'impresa per ogni segmento della filiera, gli aiuti sarebbero immediatamente revocati con recupero delle somme già erogate. Entità degli aiuti e scadenza. Allora, i contributi in conto capitale sono concessi fino all'intensità massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile e congrua in base al progetto presentato. I finanziamenti agevolati concessi con il fondo di rotazione possono essere cumulati con i contributi in conto capitale anche per le stesse spese nei limiti previsti dai regolamenti comunitari degli aiuti de minimis. Per le domande che devono essere presentate alla direzione centrale non esiste una scadenza, in quanto la procedura di valutazione si svolge a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ventesima puntata dedicata con Sandro Menegon ai bovini e parliamo ancora della pezzata rossa friulana nel secondo dopoguerra, consistenza numerica e diffusione. Alla metà degli anni 60 la razza risultava presente con 371.600 capi e 185.700 in regione, pari al 50%, 99.900 in Veneto e 95.000 in altre province. La meccanizzazione diffusa in forma esponenziale chiaramente determinò l'abbandono delle razze a triplice attitudine o modificò le metodiche della loro selezione? Nel 1957 venne approvato un nuovo standard che classificava ancora la razza a triplice attitudine, ma era evidente che la sua affermazione dovesse basarsi su latte e carne. Venne ancora ridotta l'altezza garese, una diminuzione di peso delle vacche e un aumento del livello produttivo minimo per l'accesso al libro genealogico, 2.800 kg. Alcuni furono contrari alla riduzione della taglia già dal secondo dopoguerra, definiti dal veterinario Rigluto paladini del gigantismo. Qual è la situazione dopo il terzo standard di razza del 57 e negli anni dei grandi cambiamenti epocali? Questo fu il periodo nel quale l'agricoltura si affrancò da una situazione di arretratezza e si aprì a una logica di mercato. La fecondazione artificiale si diffuse rapidamente, consentendo la soluzione di molti problemi di carattere sanitario e un forte progresso genetico. Le stalle vennero ammodernate e costruite con nuovi criteri, abbeveratoi, corsie di alimentazione, nuovi sistemi di contenimento, mungitura meccanica, eccetera. La disponibilità di alimenti migliorò grazie al diffondersi degli erbai intercalari, all'uso del sorgo prima, del mais a maturazione serosa poi e al conseguente pratica diffusa dell'ancellamento. Il miglioramento delle condizioni economiche degli allevatori e della loro preparazione tecnica consentirono anche una corretta e razionale alimentazione degli animali allevati. E dunque? Nel 1964 l'Associazione Friulana Tenutari Stazione Taurine della provincia di Udine, con parere favorevole dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e l'Associazione Allevatori del Friuli, deliberò di acquistare alcuni tori di razza pezzatarossa bavarese in via sperimentale al fine di migliorare la produzione della carne e la resa al macello, che all'epoca erano piuttosto basse a causa dell'incidenza dello scheletro e dello spessore della pelle. Il Parco di Sant'Osvaldo a Udine è il tema della rubrica di oggi dedicata ai giardini con Franca Merluzzi. A Udine il parco dell'ex ospedale psichiatrico provinciale è un'area verde di 22 ettari a disposizione di tutti. Vanta un patrimonio botanico notevole con piante centenarie come il grande cedro di Odara della piazzetta d'accesso, il ginkgo nei pressi della chiesa, i vecchi tassi, i lunghi viali alberati di platani e tigli, le praterie e i boschetti ai margini. Il parco è sempre aperto. Le cooperative che lo gestiscono promuovono progetti di inclusione sociale, eventi, feste, visite guidate, laboratori, orti sinergici. In questo periodo il parco ospita, fino al 7 luglio, la rassegna di arte contemporanea L'arte non mente. Non si può dimenticare che Sant'Osvaldo fu un triste luogo di ricovero e di costrizione. All'inizio fu una struttura moderna, inaugurata nel 1904, poi divenne una cittadella immersa nel verde ma separata e autonoma, ai margini di Udine. Era dotata di chiesa, teatro e di colonia agricola, una fattoria in cui lavoravano i degenti. Impressiona scoprire che qui i 90 anni furono ricoverate oltre 100.000 persone. Per i minori definiti ineducabili si ristrutturò negli anni 30 un edificio, ora non più esistente. C'è ancora chi ricorda il Gatto Nero, l'osteria di fronte all'entrata, punto di ritrovo per coloro che venivano a Sant'Osvaldo. Nei pressi, su 35 ettari che appartenevano all'ex manicomio, ha sede l'azienda agraria dell'Università di Udine, dove è visibile un tumulo protostorico, cioè una sepoltura monumentale risalente a 2000 a.C. L'azienda è luogo di sperimentazioni nel settore agricolo e se una delle prospettive per il Parco di Sant'Osvaldo fosse rilanciare la memoria dei giardini, degli orti, dei frutteti con nuove e belle coltivazioni a chilometro zero... Seconda puntata della storia dell'arte legata alla produzione della grappa con Gabriele Cagliazza. Ripercorrere la storia della grappa friulana attraverso l'arte significa anche, e forse soprattutto, passare in rassegna le etichette. In un suo recente studio sulle etichette in Friuli, Gabriella Bucco ha significativamente parlato di tali moderni cartigli come di un mondo quasi inesplorato, benché in esso si incontrino ad alto livello creatività artistica, capacità tecnica e innovazione tecnologica. A gran distanza di tempo dalle etichette fatte apporre dal conte Fabio Asquini nella seconda metà del Settecento, sul corpo e per la prima volta sopra il turacciolo delle bottiglie muranesi contenente il suo Picolite del Friuli, destinato a molte personalità europee, si possono oggi ricordare le creazioni di numerosi artisti e appassionati che quantomeno dal XVIII secolo contribuirono ad arricchire di colori e di significati i diversi contenitori incaricati di veicolare l'acquavite di vinaccia friulana ovunque essa fosse richiesta o inviata. Se il baffuto imbacucato bevitore di grappa delineato da Emilio Caucigi intorno al 1941 per l'acquavite polare Mangilli, o il caratteristico Fogolar Furlan disegnato da Otto D'Angelo per la grappa delle distillerie d'Urbino, devono molto alle consimili etichette per vini, si rifanno invece molto alla devozione, alla tradizione e alla storia il bozzetto a colori raffigurante la chiesetta di San Giovanni Battista di Ramandolo, scelto per uno dei propri maggiori prodotti dalla ditta Ceschia, o la popolana in costume con la gerla sulle spalle, che negli anni 50-60 contraddistinse le acquaviti di Tocai e Verduzzo della Candolini, o ancora il grande alare in ferro battuto della Maianese de Mezzo, o infine le diverse immagini e citazioni classiche riproposte sui prodotti imbottigliati ad Aquileia. Ovviamente, non di rado, l'etichetta comprendeva e tuttora comprende il marchio o logo dell'azienda, di volta in volta costituito, arricchito o sostituito da elementi tratti dalle più diverse branche dello scibile. si va dalla sirena monocaudata entro scudo araldico dei fratelli Serena di Spilimbergo al segno paleografico divenuto emblema della distilleria Nonino di Percoto, oppure dal sigillo comunale cividalese reimpiegato dalla ditta Domenis alla corona a cinque punte scelta dalla Camel per la sua grappa stravecchia. E ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento poco attivo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 e 16,70 euro al quintale IVA esclusa e la soia tra 32,50 e 33 euro. Non quotati come sempre invece il frumento e l'orzo. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 1,10 euro, mentre la soia è calata di 2,80 euro al quintale. Andamento discreto negli scambi al mercato trafotigro di Udine, dove in serata Gentile e la Lattuga Trocadero sono pagate all'ingrosso tra 1,30 e 1,40 euro al chilo IVA esclusa, la cicoria tra 1,30, le zucchine tra 0,90 e 1,20, la scalaura riccia tra 2,60 e 2,70, i pomodori italiani in grappolo tra 1,20 e 1,30, i finocchi tra 1,30 e 1,50, il radicchio rosso tondo tra 1,50 e 1,60, i peperoni gialli e rossi tra 2,50 e 2,60, i cavoli tra 1,50 e 1,60, le patate novelle tra 0,90 e 1,10, i kiwi tra 2,20, le fragole tra 3,50 e 4,50, le ciliegie tra 2,50 e 5 euro, le pesche e pesche noci tra 0,90 e 2,10, le albicocche tra 1,40 e 2 euro. Segno positivo nel settore della pesca per le migliorate condizioni meteo. Però ci sono quantità limitate e i prezzi sono leggermente in salita. La cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 25 a 34 euro al chilo IVA esclusa, le orate da 10 a 15, le sogliole da 8 a 25, le seppie da 8 a 15, i laterini a 8 euro al chilo, i gamberetti di laguna da 11 a 15, le anguille da 14 a 18. Infine, scambi deboli nel comparto degli avicunicoli con i polli a terra pagati tra 1,14 e 1,16 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,45 e 1,47, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,35 e 2,39, i coniglioni di chilo e mezzo tra 1,75 e 1,81, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 12,60 centesimi il pezzo. E con il provvisore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanutto, sentiamo cosa ci riserverà il tempo nella settimana entrante. L'anticiclone africano spinge aria calda e secca sull'Italia centrale e meridionale, mentre una vasta depressione centrata sull'Irlanda fa fluire correnti atlantiche più umide ed instabili verso le Alpi. Lunedì, dopo il passaggio di un fronte in Germania, l'aumento della pressione del suolo farà fluire correnti nord-orientali sulla regione. Domani avremo cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, più variabile sui monti, dove sarà possibile qualche locale rovescio pomeridiano. Sulla costa soffierà buona moderata, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature massime in leggera diminuzione. Martedì su pianura e costa ci dovrà sereno a poco nuvoloso, su monti da poco nuvoloso variabile, con bassa possibilità di qualche locale breve rovescio pomeridiano. Sulla costa soffierà burino al mattino, brezza nel pomeriggio. Mercoledì sulla costa avremo cielo da sereno a poco nuvoloso, sul resto della regione cielo variabile, sarà possibile qualche rovescio temporale pomeridiano, più probabile in montagna ma possibile poi anche in pianura. Brezza sulla costa, temperature massime in pianura fino a 32 gradi. Per il resto della settimana il tempo sarà ancora determinato dalla presenza della vasta depressione d'Irlanda, che generando una saccatura in Atlantico richiamerà correnti sud-occidentali verso l'Europa. Il tempo avrà un'impronta molto estiva, con prevalenza di sole sulla costa e di mattina, mentre nel pomeriggio non mancherà qualche piovasco o qualche temporale in montagna. Le temperature massime saliranno in pianura tutti i giorni oltre i 30 gradi. Come sempre vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. A San Vit la chiariese cul marit, ovvero a San Vito il 15 giugno le ciliegie hanno il marito, ovvero sono bacate. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Giovanni Taormina e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?